24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Se non ci fosse stato il suo centrino alle elezioni, Berlusconi sarebbe al Quirinale. Ecco, quando un uomo politico, se Monti è un uomo politico, ne ho qualche dubbio, si vanta di aver fatto perdere qualcuno e non di cosa ha fatto per l'Italia, beh, è veramente triste e fa veramente pena. Mamma mia, Renato Brunetta per un attimo si è concentrato non più su Fazio, la Rai, eccetera, su Mario Monti e il suo centrino. Buongiorno cari italiani, buongiorno a tutti, questo è 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9 e con Miriam Lucchetti in redazione e con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo pronti subito ad aprire il nostro Parlamento quando sono le 6.35 in punto. Il caffè volentieri a tutti quanti. Evviva, evviva, evviva Nicole Minetti e il suo caffè. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Ah, quante notizie oggi. Quello che paghiamo, voglio bere tanto da tornare storto come il dottor. Allora, intanto Letta dice che questa vicenda dei 14 euro è inventata, i 14 euro in più in busta paga, insomma, dice una cifra mediaticamente buttata lì, non sono 14 euro, però non ho ben capito quale sia la cifra che lui ha dato, credo, ieri da Lilli Gruber. Comunque voglio salutare Vincino subito, Vincino, eccoci qua, buongiorno e ben ritrovato. Ti sono 13 euro. Sono 13 perché sono... 12. Al ribasso, non lo so, 14 lordi forse, non lo so. Voglio salutare Vincino, il grande, torna Marione Adinolfi. Buongiorno Marione, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Quanti saranno questi euro? 14, 15, 16? Tanti non sono, diciamo, sì. questo lo possiamo dire. Questo Letta, sì. Letta ci perdonerà, non credo siano risolutivi. Cipino. Diciamo. Un cippi, cos'è? Credo saranno diversi da persona a persona. Peraltro, immagino percentuali sul proprio reddito. Questa Mario di Vincino l'ho capita adesso, solo le sinapsi, il cippino per il pokerista di Nolfi. Fido Vincino al tavolo, che state un giorno che mi darà la soddisfazione. Ma guarda che Vincino gioca a poker, ho scoperto. Vincino c'ha due cose, c'ha i soldi e quindi si può giocare con lui e deve essere battibile, diciamo così. Battibile, va bene. Allora, insomma, è un momento... No, tra l'altro ho letto il giornale, ho visto... pensionati e statali sono i più colpiti, le categorie più colpite dalla legge di stabilità. Poi uno apre il Corriere della Sera, prima pagina, scoop del Corriere, anche Veronica Lario, caro Vincino, poveretta. Il Tribunale di Monza le ha benché dimezzato l'assegno, non più 100.000 euro al giorno, si dovrà accontentare di 46.000 euro al giorno. Milione. Pascale è contenta. La Pascale, sì, cioè, sono fagiolini che si comprano a Iosa. Chili di fagiolini, comprate fagiolini con questo risparmio. No, la notizia è questa, Mario, te lo dico. Veronica Lario guadagnerà 1,4 milioni al mese, non più. Mamma mia, è cosa pazzesca. Poverina. Guadagna più di una mezzala del Milan. Sì, beh, certo. Diciamo così, la prestanza di questo livello. No, mi pare sempre esagerata la cosa. Sì. Praticamente a Berlusconi non vogliono bene la procura di Milano, credo. No, no, gliel'hanno dimezzato, cioè era di più, prima. Lo so, però ti sembra poco, 40, tu no. Ti svegli la mattina, 46.000, poi ti svegli domani, 46.000, così, svegli, 46.000, come se spendono 46.000 euro al giorno. A colazione te li trovi lì proprio, a colazione, no? I pacchi di soldi su bellissima, no? Vincino, caffè, latte, tè e 46.000 euro lì, subito sul tavolo. Stupendo. Bellissimo, è un'immagine fantastica. Le sue, poi ho letto, però Berlusconi si tiene la residenza di 120 stanze, no? 70 stanze, 120.000 metri quadri, come la residenza a Mondello di Vincino. Insomma, vabbè, però allora ci fa il bagno io, sono a Roma per ora, disgraziatamente, ma l'altro ieri hai visto, ci facevo tutti il bagno là, mamma mia. A Mondello. Allora vi chiedo subito, perché la polemica è deflagrata ancora l'altro giorno, il Il gesto di Maradona. Allora, Mario Adinolfi, tu che ami anche il calcio, io l'ho detto, io mi sono sentito colpevole perché io lo guardavo Maradona e dicevo Maradona e lo ascoltavo, e per un attimo ho messo da parte tutta la vicenda, il fisco, la presunta evasione. Mario, tu ti sei arrabbiato? Ma Maradona perdono tutto da sempre, per questo, ma non so, certo. Questo vizio da calciofilo, a Maradona perdono tutto, insomma, va bene tutto, la mano, il gol di mano, e figurati, insomma, la lealtà sportiva, la cocaina, figuriamoci se non gli perdoniamo le tasse, insomma. Abbiamo questo atteggiamento indulgente, io ce l'ho, devo dire, confesso di avere una forte simpatia per Maradona dovuta alla sua totale eccezionalità. Sì, ma infatti gli si perdona tutto. Ho parlato con Chavez, che era un dittatore, insomma, va bene, ma tanto lo dice Maradona, va bene tutto. No, però effettivamente poi il giorno dopo la gente... Ma Fabio Fazio doveva fare qualcosa lì quando al gesto dell'ombrello, che un po' era, come dire, il gesto a tutti gli italiani. Toh, le tasse, eh! Io l'ho trovato simpatico anche nei confronti degli italiani. Eccola, un gesto al mio amato pubblico, che ovviamente non lo avrà capito, e quindi è ancora più interessante. Un gesto che Adinolfi farebbe tutti i giorni a colazione, insieme a 46.000 euro lì a fianco, vicino agli italiani. Capisci? No, tu che pensi, Vincino? Ma che Fazio fai? Fazio era contento, felice là. Fazio era contento. Oh, l'audience e via. No, assolutamente. Non è che sono queste cose che gli fanno la vita bella a lui. E ma che doveva fare? Cioè, ma doveva, che ne so. È felice di questo. O non lo inviti, o non lo inviti perché dice, no, è una presunta. Pare che la Tarantola, cioè la presidente Rai, ieri si aggirasse nei corridoi a dire, ma come, dobbiamo partire con gli spot del canone tra qualche tempo? Ora con questo pasticcio di un evasore, come la mettiamo? Vincino qua, insomma, penso gli italiani la cosa bella è che il contratto non l'ha firmato lui. Questa è una giustificazione meravigliosa. In che senso? Chi l'ha firmato? Maradona cosa ha detto? Il contratto non l'ho firmato Il contratto, no, ma attenzione, lui ti ha acchiappato solo i soldi, ma lui non l'ha firmato il contratto. No, però devo dire, Franco Bechis oggi su Libero, tra poco lo leggerò in rassegna stampa, racconta la... perché leggi questi giornali alla mattina alle 6, uno si sveglia e legge Franco Bechis, no, perché poi il ragazzo è spazio, ma non può alle 6 di mattina, cioè li ha letti già tutti, ma no, e che devo fare? Ma che devo fare? Guarda, stare a dormire invece. Comunque Franco Bechis racconta la vicenda e dice che Maradona in realtà ha ragione, cioè avesse fatto ricorso come hanno fatto Careca e Alemão, che erano due compagni di squadra, avrebbe avuto ragione, come è stato dato ragione a Careca e ad Alemão, una vicenda complessa, fiscale. Semplicemente lui non ha fatto ricorso perché era all'estero, e quando l'ha fatto gli hanno detto no, è troppo tardi, è prescrizione. Cioè l'unico caso in cui la prescrizione va a danno di chi fa ricorso. Quindi in realtà, dice Libero, non è un evasore tecnicamente, semplicemente non ha fatto ricorso, altrimenti avrebbe vinto. E quindi, okay. E allora ha ragione lui. Via. Solo che è un braccettino, lui, hai visto? È piccolo, però il coso. La mano di Dios. Cioè, Sordi era molto più grande il suo tie. No? Sì. È una manetta, cioè, come c'ha i piedini, no, in realtà. E Maradona è tutto un po' compatto. Tutto però un po'. Hai visto? Prima Brunetta, poi Maradona. Cioè, domani chi andrà? Cioè, va sempre più basso, Fazio. Non lo so. No, se tu noti. No, come te, sempre più in basso. No, scusami, guarda che è lui sempre più alto, questa cosa qua, che lui c'è sempre questa sedia che è il doppio di altezza. Mario, fermalo. Perché... è terribile, cioè, questa è la cosa più vigliacca che hanno, guarda. No. Io la prima volta l'ho visto con Costanzo, che quando mi ha intervistato una volta, non so in quale, lui stava su uno sgabello 3 volte più alto di me. Io guardavo là sotto, no, e là è... Ma che c'hai ste cose che si fa quando si è 12 anni, tu sei più alto di me, ma chi se ne frega? Ma aspetta, tu sei in televisione, ti intervista questo dall'alto e tu sei in basso, sei imbarazzato, non, guarda che psicologicamente sei fregato. Hai visto, Marione, fa così Fazio. Io sono alto e grosso, quindi infatti, quando mi intervista in televisione mi faccio buco. E quindi spaventa tutti. Oh, vi voglio far sentire la straordinaria gaffe del ministro Cécile Kyenge ieri in questa farsa. Io lo dico farsa. Ieri c'erano i funerali senza le vittime, senza i sopravvissuti, senza le bare. I funerali senza le bare hanno fatto. I funerali senza le bare. Vi rendete conto cosa c'è di protagonista macabro ma triste, ma protagonista in un funerale? La bara, il defunto. Non c'erano le bare, però c'era una gran passerella di politici. Sentite il ministro Kyenge. Bisogna unirsi insieme per riconoscere che per la prima volta sono stati fatti funerali di Stato, è stata fatta una cerimonia ufficiale e lo Stato riconosce appunto in una cerimonia ufficiale. Ma come? Ma non erano funerali di Stato, Maria Di Nolfi, è proprio qui il problema, non è stata fatta una cerimonia di funerali di Stato per la prima volta, i funerali, poi ha fatto una serie di smentite, no mi sono sbagliata, non sono funerali di Stato, ma lo Stato c'era. Qualche volta l'ha detto la Kyenge, che ha un atteggiamento molto ieratico, a proposito di trasmissione, una volta ho fatto una trasmissione con lei in TV e ha poco atteggiamento di quelli che in realtà poi hanno paura di sbagliare e quindi magari dicono poco, cioè, pensi, quelli che dicono parlo poco così sembro più intelligente, insomma. Io l'ho trovata in alcuni passaggi inadeguata la Kyenge, inadeguata su questioni più rilevanti di questa. Tra l'altro ieri ci sono state anche le contestazioni, Vincino Alfano è stato tirato via dalla sua Agrigento, Kyenge che fa questa gaffa. Avevano ragione, è stato bellissimo, quelli di Lampedusa che hanno fatto, sono usciti fuori, hanno protestato, hanno accusato, cioè era una cosa, questa qua che non li hanno fatti andare, una cosa proprio terribile, fa il funerale senza i parenti, ma sì, non hanno fatto, entrare, no, ma sì, ma non hanno fatto entrare i sopravvissuti, ma non c'erano le bare, ma vi rendete conto? Le bare le hanno già seppelliti così nei funerali. C'era Alfano, giustamente si prende i fischi e se li merita 10 volte, guarda, non Berlusconi felice, li guardava in televisione Alfano che prendeva i fischi, lui. Vabbè, era felicissimo, guarda, era no, felicissimo, perché... no. lo sa Vincino che l'ha chiamato, ieri ha chiamato Berlusconi, gli ha detto: oh, com'è sta storia di Veronica? T'hanno dimezzato l'assegno. Bene, molto bene. Hai visto i fischi ad Alfano? Tutto a posto. 24 mattino. Telecom Italia Mobile. Risponde l'operatrice A426. Buenos días, el mi nombre es Alejandro de la Mendoza de la Siquera. Señor, ¿cómo tú puedes ayudar? Salve, mi vorrei rivolgere all'onorevole Renato Brunetta. Renatino, piccolino, ti sei fatto bene il conto? Quanti soldi pubblici abbiamo speso per Nicole Minetti e suo stipendio da consigliera regionale? E tante altre belle ragazze che Berlusconi ha fatto entrare in politica inutilmente? Pensa a questo e rifletti prima di aprire la tua bella bocuccia. Sono proprio in sofferenza, Milan. Bisogna che cambi questi benedetti ospiti. Su, chiama me la mattina. Vengo io, alle 6:30 ti porto una boccata d'aria nuova. Va bene? Per Zeus. Carissimo Milan, buongiorno. Ti avevo già chiamato un tempo fa. Ti ho detto che mi lavoro con i maiali. È tanti anni che lavoro con i maiali, come quelli che sei al governo. Ascolta una roba. Il vero Monti non ce la fa, te l'ho detto io 3 mesi fa, non ce l'ha fatta, hai visto? E è nato un maialino che assomiglia tanto a Giovannini, che non fa più niente per le pensioni, te che ne pensi? Ciao, ti saluto, stammi ben. Sentir blaterare quegli incapaci, ipocriti e mentitori seriali che da un paio d'anni siedono a Roma, sortisce ormai un unico effetto nel sottoscritto. Lo schifo e il ribrezzo che provo nel trovare un bel cappello nella minestra. 14 euro al mese ci hanno dato. Vergognatevi, vi dovete vergognare. Sapete cosa ci faccio con 14 euro? Ci compro la carta igienica. Così posso dire che il sedere me lo pulisce il governo. Vabbè, eccoci qua, eccoci, la segretaria telefonica. Mario, che dici? Oggi sono stati abbastanza... Sì, di la verità, in realtà ci sono messaggi molto più intelligenti che tu scarti e mandi apposta i messaggi più scemi. Ma no! Di la verità, la selezione che fa in regia Miriam Lucchetti è questa. No, io no. Prendo gli idioti per far incavolare la Rinolfi, cioè per dimostrare che l'italiano è disastroso. Ma no, oggi pensavo fosse andato anche abbastanza bene. Ma come bene? Hai sentito che dicono? Dai, tu, vergogna! È proprio così, ma dai! E che devi fare? L'unico carino è quello di Giovannini, quello è stato carino. Cioè, quello che alleva i maiali, quello è un mito. Il maiale Giovannino è carino, guarda, perché Giovannini è insopportabile, il peggio di tutti. Guarda. Invita a fare l'ospite, chiamali, fai la puntata con il pubblico una volta. Invito, quello ti chiami, se voglio fare l'ospite, lo chiami. E ci senti, mi dici qualcosa sul cuneo fiscale, come l'avresti ridotto te, con quali risorse? E lo fai sblaterare di cazzate che dirà al nastro. E capisci che l'italiano è quello che io dico sempre, un culo di ignoranza pura. Eccola, il pubblico è molto peggio dei politici. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Questa ormai è la disfida ad Inolfi pubblico. È la sfida tua. Tu devi chiamare quello che vuole fare l'ospite, devi chiamare e fargli due domande in croce e dirai le minchiate che ti dirà. No, ma mica un'interrogazione, non ho capito. Per sentire le idee del pubblico. Ah, ecco. Vabbè. Vincino, aiutami. No, mi frega a me. Se mi chiede a me il cuneo fiscale là, è soffregato. Ah, sì, il cuneo fiscale. Assolutamente. Senti, ma avete visto Letta, davvero democristiano, ieri i sindacati hanno proclamato lo sciopero e si vedeva che era come la scenetta di Benigni, no? Che c'era di Letta che voleva dire brutti precipitosi, siete stati precipitosi, ma voleva dire, no, Vincino, gli veniva a dire brutti precipitosi i sindacati, non si fa lo sciopero, voleva lo sciopero. Dire grande, no, niente, non gli è venuta questa volta. Non gli è venuta. Che devi fare? Allora, intanto, buone notizie, però è stato rimosso il dirigente che ha chiesto un centesimo di euro al pensionato di Riccione di 84 anni. Dopo è stato rimosso perché l'INPS ha fatto sapere che sotto i 12 euro non si chiede niente. Quindi, come mai è partita questa cosa? Ha chiesto scusa, eccetera. E quindi, vabbè, ma quello dell'ufficio stampa di Roma, no, quello che tu, i black bloc sono tutti giornalisti, quello sta ancora al suo posto. Ma chi è questa? Ma dove te la sei? Ti assicuro, c'è uno che l'altro ieri, il segretario del sindaco Marino, ha detto i veri black bloc sono i giornalisti. Cioè, ma Mario, te la sei persa questa, Mario? No, l'ho letta anch'io. Chi è questo? Credo sia proprio un esponente di giunta, adesso non mi viene in mente se Miriam di là... Googla rapidamente, trova Googla, Miriam, Googla, trova Googla, anche Googla. Il nome, ma c'è un assessore, è un esponente della giunta, non è un tecnico, diciamo, un assessore così, e ha detto, sì, non so se è l'assessore addirittura il vice sindaco, non vorrei esagerare, che ha detto qui è pieno di infiltrati giornalisti, insomma, e in effetti era ovviamente quella manifestazione era agghiacciante, ieri l'ho detto in televisione, se la sinistra è questa, stanno a posto, capito, per una vita, insomma, ovviamente continueranno a prendere il 3% tutta la vita, di antagonista di quel genere. Cioè li ha campato. Il nulla assoluto, insomma, neanche a far casino sono bravi, insomma, cioè non riescono nel niente, insomma, e ovviamente è un pezzetto di quel popolo che ti telefona. Ah, eccola, sempre andare a di una cosa tragica. Tra l'altro, una cosa a me, io, quando quei 5 minuti che attaccano quei poveretti della Guardia di Finanza, ci sono questi 10 che attaccano e ci sono 100 giornalisti che fotografano tutti là contenti. Io dico, ma contenti? Ma dai, sì, felici, erano là, ma cioè, guarda, se tu guardi... Ma 100, che devono 100 fare? Ma che devono fare? Sono 100 messi là, come io al posto del manifestante mi sarei girato verso di loro e avrei cominciato ad attaccare loro pure, scusi. Ecco. Intanto Miriam ha googlato, Miriam. Enzo Foschi può essere. Enzo Foschi, capo della segreteria di Ignazio Marino, ha postato questa frase su Facebook, i giornalisti. Vabbè. Con una faccia da casa Paolo, Enzo Foschi, non è uno qualsiasi, non è uno qualsiasi. Qui del Lazio conta parecchio. Esponente di spicco del PD romano, insomma, abbiamo googlato, vedi che Miriam ha googlato.

altri che ci dicevano il settore privato non subisce la cassa integrazione, il settore pubblico scusate, mentre il settore privato è quello dove è stato tagliato moltissimo. Ci ha scritto un bancario dicendo invece io ho perso il 20% dello stipendio, a che apriti cielo, altri ascoltatori a dire magari io avessi lo stipendio del bancario sarei disposto a cedere il 20% dello stipendio. Insomma, ognuno a raccontare la propria storia col timore, il timore da parte mio che questa situazione di crisi si trasformi in quello che non dovrebbe essere mai, e cioè poi in una guerra di classe, in una guerra tra virgolette tra poveri, in una guerra tra la popolazione, cosa che davvero non dovrebbe mai avvenire, a dire io guadagno meno di te e io sono stato più decurtato di te. Il dato di fatto è che gli stipendi decrescono, non saranno come dice Letta, lo vogliamo subito far sentire ieri da Lilli Gruber, ha detto è una leggenda per esempio questa che gira col fatto che il taglietto del cuneo fiscale porterà solo a 14 euro in media di aumento in busta paga, una leggenda, l'ho fatto molto arrabbiare. Un sassolino, una cosa che mi ha dato noia in questi giorni è stata questa storia del 14 euro, è stata una roba sulla quale... Ci arriviamo. È partita una operazione mediatica, 14 euro non c'è scritto da nessuna parte, non esiste, è una cifra fasulla che è stata inventata per farci del male, per far raccontare una cosa che non è. Una cosa che non è. Voglio salutare intanto Giuliano Cazzola, buongiorno e benvenuto Cazzola. Buongiorno, io però non sento bene, c'è qualcosa nell'acustica. Adesso cerchiamo di migliorare, intanto lei è responsabile welfare di Scelta Civica, ha scritto anche un libro, Figli miei precari immaginari, insomma sul mondo del lavoro. Cazzola, le faccio intanto ascoltare, vede già gli ascoltatori ci raccontano le loro storie, per esempio Mirko da Genova. Mirko, buongiorno, lei quanto guadagna, che fa nella vita? Buongiorno Mila, buongiorno agli ascoltatori. Guarda, io sono un trasportatore di gas criogenici. 10 anni fa guadagnavo 300-400 euro di più, e poi la ditta ha praticamente chiuso il settore logistico e ci ha passato con dei vettori. E i vettori subiscono gare d'appalto. Ogni 3 anni mi viene decurtato lo stipendio per non perdere l'appalto. E questo è il futuro. Dato di fatto. Lei che quando sente gli statali, giustamente anche loro si lamentano perché è il quinto anno di blocco degli scatti, che pensa? Guarda, io penso che siamo tutti sulla stessa barca, perché non ho ancora sentito un settore dove le cose vanno bene ultimamente. Posso solo augurarmi di non perdere il lavoro io a sto punto, perché con le gare d'appalto non si sa mai come va a finire. Vabbè, insomma, lei ha perso 300-400 euro rispetto a 10 anni fa. Mirko, già la prima testimonianza, intanto la ringrazio. Cazzola, spero che mi senta un po' meglio adesso. Un pochino meglio. Intanto dice Letta questa vicenda di 14 euro è una falsità. Ma allora, vogliamo mettere un pochino di chiarezza. Non ho capito però quale sarebbe la cifra vera. Questo... Ma guardi, se ho capito bene io, ma non sono così sicuro, c'è un problema di divisione degli stanziamenti, nel senso che se gli stanziamenti previsti nella legge di stabilità, almeno quelli che risultano, perché non sono sicuro che sia già stata pubblicata, e se lo è stata nelle ultime ore di ieri, se si divide, diciamo, gli stanziamenti per il numero di dipendenti, vengono fuori cifre irrisorie, no? Cosa dice Letta? Dice noi in Parlamento queste cifre le concentriamo su i lavoratori più bisognosi, sui lavoratori che guadagnano meno, che hanno maggiori problemi. Però ecco, se si fa un'operazione di questo genere, che sia pure una benvenuta, è chiaro però che non è più una operazione di riduzione del costo del lavoro, ma diventa un'operazione, chiamiamola in senso buono ovviamente, un'operazione assistenziale, no? Perché a questo punto dare un po' di soldi a pioggia, una spinta alla competitività, se ad alcuni dei loro lavoratori anziché 14 euro ce ne vanno 50, ai lavoratori magari che guadagnano meno, che hanno maggiori difficoltà, no? Quindi insomma, io direi che Letta si arrampica un po' sugli specchi. Qual è il problema? Il problema è che noi ci siamo avvitati in questa vicenda dell'IMU, sì, che per fare un'operazione politica sull'IMU che teneva in piedi questa maggioranza, in buona sostanza sono messe lì risorse che sarebbero state meglio impiegate per esempio per ridurre il cuneo fiscale. Ma lei dice, insomma, è una sorta di forma di assistenzialismo, perché o si creano le basi per generare un sistema più produttivo, più competitivo, eccetera, quindi un sistema che crea nel futuro con maggiori radici, un maggiore sviluppo, altrimenti è come dire dare un pochino più di soldi in busta paga, così è un contentino, un qualcosa no, che... Se io faccio un'operazione importante sul cuneo fiscale, questo sì, e riduco il costo del lavoro, diciamo, per un intero settore che esporta, un intero settore che abbia delle prospettive, diciamo, di sviluppo, o addirittura per tutto il mondo del lavoro, faccio un'operazione grossa, no? Se io invece, diciamo, riduco le risorse, le piccole risorse che ho potuto investire e le butto su alcune migliaia di lavoratori che si trovano in condizione di particolari difficoltà, faccio sicuramente un'operazione meritoria, sì. Però è un'operazione, insomma, che aiuta dei lavoratori in difficoltà, non è un'operazione che aiuta il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro ad essere più competitivi. No, ma è chiaro. Allora, c'è da dire che molti ascoltatori ovviamente ci scrivono, per esempio un agente di commercio, Alessandro d'Arezzo, dice: io ho perso più del 50% del fatturato, aumentano solo le spese in questi anni. Oppure c'è chi ci scrive che non tutti i pensionati sono uguali, che dice ci sono le invalidità a pioggia e quelli che se ne sono andati a riposo a 32 anni, vabbè, vecchia vicenda sulla quale una vecchia classe politica cazzola, la vecchia classe politica, quella che ha mandato in pensione i baby pensionati, mannaggia. Ma lei che faceva quando la Democrazia Cristiana faceva queste cose? Non poteva mettersi di traverso, lei era nella CGIL, no? Che faceva, cazzola? Guardi, io da questo punto di vista ho sempre fatto quello che ho potuto, perché diciamo io mi sono sempre battuto per aumentare l'età pensionabile, tanto che poi nel 1993 la mia presenza in CGIL era diventata politicamente insostenibile, perché io ero d'accordo con le riforme di Amato e la CGIL faceva sciopero. Io posso produrre un'amplissima letteratura, sì, dove da quando mi occupo di pensioni, e cioè dal 1987, perché prima mi occupavo di altre cose, io ho sempre ritenuto che le riforme del sistema pensionistico andassero fatte. Comunque sono tanti davvero i racconti che oggi vorrei raccogliere qui. 800 24 00 24, tra 800 e 950 euro mensili senza tredicesimo e ferie, così ci racconta un impiegato in una cooperativa di Modena: quando ho cercato un altro lavoro mi sono trovata precaria. Tra l'altro su questo, cazzola, tra poco lo vedremo, anche delle teorie un po' anche degli italiani forse un po' troppo lamentoni, ma voglio sentire appunto Bruno da Prato. Buongiorno Bruno, ci ha chiamato. Lei come va lo stipendio? Beh, lo stipendio, buongiorno intanto, buongiorno. Mila, complimenti. Lo stipendio, volevo appunto portare la mia testimonianza di una decurtazione avvenuta nel giugno scorso. Io sono un dipendente di un'azienda di autotrasporti privata con circa 25 dipendenti e appunto, dicevo, il giugno scorso l'azienda ci ha chiesto, tra virgolette, di abbassarci le trasferte. Nell'autotrasporto una buona parte dello stipendio va sotto la voce delle trasferte, sì, perché l'azienda appunto ci ha detto che se andavamo avanti con quelle trasferte lì non sarebbe riuscita ad andare avanti ad ottenere... E quindi lei quanto ha perso percentualmente del suo stipendio rispetto a quello che aveva prima, diciamo, più o meno? Ma diciamo mediamente va dai 150 ai 200 euro al mese in meno. Netti. Mediamente netti. La cifra è quella. Ora faccia lei su una base di 2.200 euro siamo tornati indietro a 2.000, ecco. Quindi sì, voglio dire, facesse conto dei quei 14 euro che poi Letta dice non sono 14 euro, potrebbe, non lo so, potrebbe essere 30 a questo punto, 40, 50, sì, diciamo. Lei no, comunque con questo taglio del costo del lavoro non le ridarebbe quei 200 euro persi? Beh no, certamente no. Ovviamente metteremo un segno più dove fino ad oggi c'è stato un segno meno, meglio che niente, sono d'accordo, ma per tornare a quei 200 euro tagliati la strada è lunga. Però la strada è lunga, ma se si taglia il costo del lavoro e si, come dice Cazzola, si creano le situazioni anche per le imprese per generare un volano positivo, magari poi gli stipendi riaumentano in altro modo. Giovanni da Bologna, Giovanni buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io sono un po' una pecora nera, nel senso che da quando lavoro fortunatamente sono sempre riuscito a aumentare il mio reddito. E ho 39 anni, lavoro ormai dal 96 e questo l'ho potuto fare cambiando la bellezza di 7-8 lavori. Cambiandoli sempre nel momento in cui l'azienda andava bene e siccome in Italia, nel mondo dei ciechi, l'orbo è re, andando in aziende più piccole che pagavano di più per una professionalità acquisita in aziende più grandi. Però Giovanni lei ci sta dicendo che per migliorare dal punto di vista dello stipendio bisogna cambiare, sapersi vendere sul mercato. Fare molto marketing di se stessi per qualunque tipo di lavoro, dal piastrellista all'informatico, dal negoziante, bisogna saper prendere le occasioni e, come diceva Steve Jobs giustamente, essere affamati, bello. Però questo porta, secondo me, una perdita netta alle aziende perché perdono competenza. Perdono capitale umano, quindi non è, io avrei preferito stare, ormai sono 17 anni che lavoro, avrei preferito stare 17 anni nella stessa azienda. Quanti lavori ha cambiato in 17 anni più o meno? 7-8 credo, ogni 3-4 anni mi trovo a cambiare. Beh, però interessante Giovanni, voglio ripartire con questa testimonianza e con le altre che arrivano, 800 24 00 24, tanto chiamatemi, statali dipendenti dello Stato che avete il blocco per il quinto anno consecutivo degli stipendi, dell'aumento di stipendi, che ne pensate di questa legge di stabilità? Vorrei partire però da questo Steve Jobs, no? Siate affamati con Giuliano Cazzola tra un attimo dopo la pubblicità, anche a capire insomma, magari essere un po' provocatori, ma non è che gli italiani che giustamente hanno tante cose per cui hanno diritto e dovere di lamentarsi, però tante volte sono anche un po' lamentoni per principio o lamentosi per principio. 24 mattino. Eccoci qua, siamo con Giuliano Cazzola che è responsabile del welfare per Scelta Civica, ma stiamo raccontando un po' la storia degli italiani anche attraverso i vostri messaggi, i vostri racconti dello stipendio. Per esempio un ascoltatore ci scrive: mia moglie ha decurtato 1033 euro mensili su 2000, l'alternativa era il licenziamento, ma come 1033, più del 50%. Oppure Fabio, 44 anni, ho appena firmato un contratto di un anno, contratto di servizi, 780 euro al mese, 13 mesi per 40 ore a settimana. O ancora Andrea da Novara, nella nostra cooperativa da gennaio abbiamo dimezzato gli stipendi. Insomma, Cazzola, questa è un po' la realtà, quindi questi sono dati di fatto inconfutabili, ma gli italiani si lamentano un po' troppo, Cazzola, si danno poco da fare? Ma guardi, io ho imparato alla mia età di non fare delle generalizzazioni sì. di questo tipo. Io sono convinto che esistono situazioni indubbiamente di grande sofferenza, soprattutto in una fase di crisi come questa. Peraltro i dati ci dicono, per esempio, che gli interventi che sono stati fatti sull'orario di lavoro, siano esse la cassa integrazione guadagni o anche il passare dal regime pieno al regime part-time, o anche per esempio i contratti di solidarietà, hanno salvato alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro che altrimenti si sarebbero persi, per cui va vista anche questa faccia della medaglia, no? Anche se sono indubbiamente facce preoccupate sì. e facce tristi. Ci sono indubbiamente però anche delle secondo me delle sovrarappresentazioni di queste difficoltà. Io per esempio ho smesso di guardare la televisione sì. perché i talk show danno l'idea di un paese allo sbando, di un paese disperato, di un paese ma dove... anch'io me lo chiedo perché e poi dopo mi attaccheranno tutti, dicono è facile, tu stai lì in panciolle eccetera, ma io la crisi che si tocca con mano, si vede, però mi chiedo ma perché vedo tutti questi telefonini, tutti questi oggetti, infatti, tutti questi, noi abbiamo, tutto abbiamo questo, 141 cioè... telefonini cellulari, ma cellulari però anche di ultima generazione, sì. perché vengono sempre rinnovati, ogni 100 abitanti, e siamo per esempio il paese in Europa che ha il maggior numero di automobili rispetto alla popolazione, sì. perché noi su 60 milioni di abitanti abbiamo 41 milioni di automobili. Cioè io me lo chiedo, effettivamente adesso non vorrei fare la famosa battuta perché poi dopo ti danno del berlusconiano, però se vai in giro per Milano, cioè la gente va ancora fortunatamente al ristorante, va ancora in vacanza, vero, sì. meno, è vero, la vedo anch'io, la tocco, la sento, tutti i giorni la percepisco. Sì, stiamo per farci prendere come Berlusconi, esatto, ma... cioè. Lei poi Cazzola, Milano, per esempio, è una città di affari, quindi molta gente va al ristorante, però pagano, paga la ditta, paga qualcun altro. Però in effetti, diciamo, andando in vacanza, se lei vede che succede, non so, un problema in un paese del terzo mondo, lei scopre che in quell'albergo dove c'è il problema ci sono alcune decine di italiani, c'è sempre qualche... centinaia di italiani. Gli italiani sono dappertutto. La rivoluzione in Egitto, no? Che c'è stato il colpo di Stato, sì, che ci sono stati gli scontri, sì, hanno pregato gli italiani di non uscire però Cazzola, qua, insomma, Cazzola qui, sempre la comunità che si trova dappertutto. Cazzola, qui bisogna dire, l'ascoltatore, poi adesso ne sento anche altri, che ha parlato di Steve Jobs, siate affamati, ha suscitato un vespaio di sms, io ne leggo qualcuno, c'è chi ci scrive: vorrei sapere se era sposato il super flessibile che ha chiamato prima. Steve Jobs sarebbe affamato ora in Italia. Oppure un altro ascoltatore: sia io che mia moglie siamo disoccupate, abbiamo una figlia di un anno e mezzo, un secondo figlio in arrivo, altro che Steve Jobs, siamo noi i veri affamati nel vero senso della parola. Vabbè, non hanno colto forse il significato di quello che diceva l'ascoltatore, ma che vuol dire l'essere affamati dal punto di vista del lavoro? A volte il lavoro non c'è, Cazzola, uno è affamato ma non lo trova. No, questo è assolutamente vero, però è vero che ci sono anche dei posti vacanti e ovviamente è anche il sistema dell'intermediazione tra domande e offerta del lavoro che non funziona, quindi è difficile dare la colpa anche a chi il lavoro non lo trova. Io faccio sempre il discorso che ho messo nel mio libro, che lei ha avuto la competenza di citare, della cosiddetta parabola di Minervio. Se lei mi dà un minuto, certo, la racconto. Me la racconti. Domenica mattina di una primavera del 2012, io mi trovo a fare un discorsetto in un paesotto della pianura bolognese che si chiama Minervio, e a parlare di lavoro, ma ci saranno state 12 persone in sala. A un certo punto chiede la parola un signore, diciamo di mezza età, che essendo in cassa integrazione mi chiede quando è che potrà andare in pensione. Io gli dico: quanti anni ha lei? Lui mi dice 42, dico: signora, mi dispiace per lei, però lei o trova un altro lavoro, altrimenti in pensione non ci va. Il dibattito continua, dopo un po' interviene un signore anziano che dice: io sono il panettiere di Minervio e sono costretto a chiudere la mia bottega perché le mie figlie fanno degli altri lavori e poi perché io non trovo nessuno, neanche un extracomunitario, che venga a fare il commesso, non il pane, ma che venga a fare il commesso. Si sarà alzato il 42enne. Una domenica mattina, uno vicino all'altro, insomma, c'è qualcosa che non va, no? In uno che... Dice, ma accidenti, l'altro che deve chiudere la c'è qualcosa che non va, dice, potremmo creare un posto di lavoro qui seduta stante, invece no. Sì, c'è qualcosa che non funziona, indubbiamente, no? Indubbiamente c'è una responsabilità delle persone, ma c'è anche una responsabilità del sistema che non riesce a mettere le persone in quei pochi, se vogliamo, lavori che ci sono. Tra l'altro io dico, un ascoltatore ci scrive anche: sono della Guardia di Finanza, non parlo mai di aumenti, ma molti di noi rinuncerebbero all'aumento se servisse a qualcosa, a non farli sprecare dalla classe politica, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Oppure un'ascoltatrice che dice: sono uno statale e in questo momento mi sento una privilegiata nonostante tutto. Vorrei sentire Andrea dalla provincia di Milano. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io sono un po' una voce fuori dal coro, perché sì, mi ritengo fortunato, ho avuto un aumento retributivo un anno e mezzo fa circa. Sì. La cosa strana è che tutto questo aumento retributivo mi viene assorbito dal super minimo, quindi gli aumenti contrattuali, che diciamo c'è un rinnovo contrattuale dei metalmeccanici circa ogni 3 anni, io ne beneficerò effettivamente dal 2017, in quanto... facendo l'ultimo aumento contrattuale sono stati un aumento farlocco, euro, Colmati sui 3 anni, 50 euro all'anno, io ho avuto un aumento netto di 160-170 euro, quindi io fino al 2017 non potrò usufruire di un aumento contrattuale. È stato un aumento farlocco, Andrea, l'hanno un po' fregato. Sono i super minimi, ripeto, certo. Non mi lamento perché ho un lavoro, ho avuto un aumento retributivo, però diciamo, assorbito subito, assorbito, esatto, subito. Vabbè, comunque, insomma, lei almeno dice, io appunto l'atteggiamento è questo, non mi lamento, anche se ho avuto un aumento che è stato, come dire, subito succhiato via, non mi lamento perché un posto di lavoro ce l'ho. Vorrei andare, grazie Andrea da Milano, vorrei andare a Padova da Antonello. Antonello, buongiorno. Buongiorno Antonello. Io lavoro in un'azienda praticamente nel settore commercio che ha avuto un calo di 2/3 di fatturato, per cui adesso siamo alcuni in cassa integrazione e siamo in una situazione molto molto delicata. Volevo dire, riguardo quello che lei prima aveva detto, perché sta crisi, telefonini, questo, se non è ancora scoppiata una rivolta, ed è bene che gente come Gazzola e tutto quel tipo di personaggi che infestano praticamente il nostro paese da una vita, non è ancora scoppiata, è solo perché la gente ancora ha da mangiare. Quando gli mancherà il cibo, allora la rivolta vedrete che scoppierà. Per quello che riguarda l'ascoltatore di Bologna, che è uno che si deve fare, cambia 8 posti in 10 anni o qualcosa del genere, non tutti hanno la capacità o la fortuna di questo signore, tanto per essere chiari, perché bisogna anche dirle le cose. È fortuna, comunque, fortuna certamente, però da una classe però politica... Da dei dirigenti come quelli che ci sono stati negli ultimi 20 anni, che sono qui, che non trovano i 4 miliardi per l'IMU o per bloccare l'IVA e ne mangiano 80 di interessi sul debito e continuano a far debito, l'unica soluzione è partire tutti gli italiani, quelli più fortunati e quelli più sfigati praticamente, ma tutti assieme, che ormai non ne possono più, e invadere la capitale. Non c'è altra cosa da fare, perché questi non fanno niente, non sanno far niente, non hanno mai lavorato, ed è gente veramente da spazzare via, non c'è altra soluzione. Mi chiedo scusa per la mia foga. No, no, ma vede io l'ho fatta parlare Antonello. No, ma io l'ho fatta parlare Antonello perché è giusto che una trasmissione di punta raccolga anche lo sfogatoio, se vuole, ma sfogatoio non è una cosa negativa, lo sfogatoio anche di chi definisce Cazzola una delle persone che è in festa, però devo andare al traffico, Cazzola, tra un attimo. So che lei è abituato a queste cose, non si spaventa, quindi potrà replicare, però Antonello riassume insomma anche la rabbia che c'è in questo momento. Certo, poi la questione armiamoci non l'ha detto, ma partiamo, facciamo la rivoluzione, invadiamo, sì, queste sono cose, mi scusi Antonello, che dicono tutti, armiamoci e partite, dai. Eccoci qua alle 8:49 minuti. Cazzola vuole rispondere all'ascoltatore, dico anche questa Cazzola, così metto il carico da 90 che riguarda me. La colpa tua è tua, Milan, cioè mia, che assecondi questi concetti falsi di Cazzola. Hai la pancia piena, non te ne fotte, spero di vedere morire di fame i tuoi figli, sono i miei figli, stia tranquillo Cazzola. Lei che replica l'ascoltatore, che però... Guardi, io sarei intenzionato quasi a replicare così, che faccia pure, che vada avanti la sua politica, così poi lui dice che adesso la gente non è arrabbiata perché ancora mangia. Secondo me, ecco, con la sua politica la gente smetterà anche di mangiare. Perché? Perché insomma una società complessa e complicata come la nostra, piena di problemi, di cose, non la si governa con la forca o con piazzare l'oretto. Quando, insomma, io sarei curioso di vedere per esempio i grillini gestire questo paese, perché, anzi, però... perché me ne andrei subito, perché sono convinto che non funzionerebbero più neanche i semafori, in buona sostanza, perché insomma le macchine devono girare, non le automobili, le macchine devono girare, la società deve funzionare. Sì, però lei Cazzola mette a confronto, cioè mentre l'ascoltatore dice la classe dirigente, la classe che è stata al potere, lei ne ha fatto parte, insomma è stato anche il Popolo della Libertà, certo è un elemento nell'ingranaggio, non le sto addossando adesso tutte le colpe, però quella classe lì in 20 anni ha prodotto questo. Lei dice invece adesso se ci fossero i grillini sarebbe anche peggio, addirittura. Ma, non andrebbe... Secondo me, guardi, io per quanto possa essere critico nei confronti del PDL, tanto che poi ne sono uscito, insomma, io non credo che ci siano stati paesi che siano stati governati meglio del nostro. Addirittura problemi non ci sono stati paesi governati meglio, paesi in Europa, se noi ci guardiamo attorno non è che possiamo, ma mi scusi Cazzola, se la crisi e vedere che ci sono certo paesi molto più virtuosi del nostro, che hanno fatto magari anche più sacrifici del nostro, che hanno fatto anche più rigore dell'altro, sì, come la Germania, che oggi ce la facciano meglio. Però mi scusi Cazzola, no, ma lei sta dicendo, cioè, l'Italia non c'è paese che è stato governato meglio del nostro, ma lei ha citato appunto la Germania, dove hanno fatto le riforme, le hanno fatte sacrifici, però poi hanno ottenuto dei risultati. Cioè, l'italiano medio pensa che se c'è un paese governato negli ultimi vent'anni al disastro è stata proprio l'Italia. Lei ribalta il tavolo dicendo guardi che adesso lo so questo, perché questo è un modo anche di rappresentare la realtà. Però io sono convinto che non è che noi abbiamo fatto politiche tanto diverse rispetto a quelle che hanno fatto altri paesi. Ma se non abbiamo fatto una riforma, non lo so. Per esempio sul terreno dell'occupazione, le dicevo prima, i dati ci dicono che abbiamo, che con le politiche che sono state fatte ci sono salvati 750.000 posti di lavoro. E questo non lo dico io, questo lo dice l'ultimo rapporto del CNEL. Sì, ma Cazzola, mi scusi, a parte la riforma delle pensioni, non abbiamo fatto una riforma, non abbiamo fatto la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma... La riforma della giustizia, ma la riforma della giustizia non la si fa perché in Italia esiste un partito dei giudici che non la vuole fare. Cosa vuole che le dica io? Eccoli. Faccio sentire Pierluigi dalla provincia di Verbania. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, io sono un dipendente pubblico, sono sì, un medico. Ho visto il depauperamento del mio stipendio negli ultimi 5 o 6 anni, ma la cosa sulla quale volevo porre l'attenzione è il depauperamento delle risorse. Negli ultimi 8-9 anni, anche oggi purtroppo, ho colleghi che non ne possono più di questo trattamento che lo Stato gli riserva. Ma mi scusi, depauperamento perché? Cioè per il mancato aumento, per il blocco degli aumenti. Però sa che molti dicono, però gli statali sono privilegiati, almeno il posto di lavoro non lo perdono. Allora, in regione Piemonte sono ad esempio stati bloccati anche gli scatti di anzianità. Sì. Gli unici due scatti di anzianità che ha un medico, perché la gente pensa e pensa male spesso. I contratti dei medici, veterinari, biologi del Sistema Sanitario Nazionale ormai da parecchi anni prevedono solo due scatti di anzianità, il primo dopo 5 anni dalla firma del contratto definitivo, sì, e il secondo dopo 15 anni, e gli aumenti siamo dell'ordine dei 300 euro. Va bene, però Pierluigi ha sentito il racconto di persone che non solo non hanno avuto l'aumento, hanno avuto decurtazioni del 20, 30, 40, 50% nel settore privato. Per, cioè, un'ascoltatrice ci ha scritto: io da statale mi sento una privilegiata nonostante non siano tempi d'oro. Ecco, lei condivide questa opinione oppure no? Per prima cosa mi sono rotto le scatole. Fino a qualche anno fa dicevo anch'io: sono uno statale, sono un privilegiato, faccio più ore dell'orologio. Non abbiamo il recupero ore, io parlo anche a nome della categoria ad esempio degli infermieri, che è una categoria veramente bistrattata, ma sì, posso anche parlare per gli insegnanti, ho molti amici insegnanti con uno stipendio letteralmente da fame. Faccio più ore dell'orologio, non vengono riconosciute perché non ci sono i soldi, non vengono pagate, non si possono recuperare. Ma la cosa grave, quello su cui ponevo l'accento, è il depauperamento delle risorse. Io ho colleghi bravi che si sono rotti le scatole. Nel giro di 10 anni ho una decina di colleghi che hanno preso la via della Francia, della Germania e della Svizzera. Insomma, che sono andati all'estero. No, ma questo è chiaro. Comunque lei dice: mi sono rotto le scatole di essere additato come il privilegiato in quanto statale. Ci fermiamo qui, questi racconti se volete continuano anche nei prossimi giorni. Ringrazio Giuliano Cazzola con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Vescapè in regia. Vi diamo appuntamento a domani puntuali 6:30 con 24 Mattino. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. 24 Mattino.